Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 23 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici tra la città e il carcere. Siete sempre su Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina, ma qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, a tutti e a tutti. E Roberto Logli con noi tutta questa settimana, presidente di AVOC, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e a tutti. Allora, io vi faccio sempre da redattore sociale delle nostre notizie dal carcere non, e leggo questa notizia da il settimanale Il Dubbio, a firma di Damiano Aliprandi, la doppia reclusione delle persone transessuali. Questo perché è un fenomeno questo delle persone transessuali, purtroppo diventato un fenomeno di fronte a cui il DAP, che è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziario, non è ancora riuscito a dare risposte univoche, insomma. E questa cosa l'ha denunciata il garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, che è andato in visita alle persone detenute transessuali nel piano terra del reparto Roma del carcere di Poggioreale. E lui ha denunciato questa situazione di quasi doppia segregazione di queste persone nei reparti precauzionali, insieme ai sex offenders, collaboratori di giustizia o ex appartenenti alle forze dell'ordine, con cui non condividono né il vissuto né i bisogni. Quindi il garante ha anche denunciato il fatto che in poche carceri, tra cui Napoli, Roma, Belluno, Firenze e Rimini in particolare, c'è una sezione particolare dedicata a queste persone, sono previste solo in questi carceri delle sezioni dedicate. In tutte le altre oltre 200 carceri italiane no. E quindi questo è un problema, da ciò ci sono disagi anche di tipo psichico, perché non sanno a chi rivolgersi per i loro bisogni specifici e anche ai loro medici specializzati. Questa è una forte discriminazione, lo ricordiamo, che viola il principio di eguaglianza previsto alla Costituzione, oltre che l'obbligo importantissimo rieducativo previsto all'articolo 27. Quindi, dice il garante, occorre fare di più per evitare una doppia reclusione, non per il futuro prossimo, ma per il nostro sobbollente presente. Dal DAP risulta che attualmente le persone transessuali nelle nostre carceri siano quasi 60, e questo è un tema dell'attenzione alle persone transgender che è nel nostro, diciamo, nella nostra visione soltanto dal XXI secolo, negli ultimi anni, ecco, e si sviluppa, diciamo, con delle prassi che tengono conto di queste persone transessuali, prevedendo per loro dei circuiti riservati, ma bisogna fare assolutamente di più. Do a te la parola, Ignazio, parlando invece oggi di Tunisia. Cosa Tunisia. Sta succedendo? Abbiamo la Presse, il giornale tunisino che utilizziamo già altre volte, Meriem Hamidullah, che forse una volta intervisteremo, fa sempre dei servizi molto interessanti, e tratta di un tema dal punto di vista dell'angolatura della Tunisia che è importante per tutti noi, è quello dello smaltimento e il controllo dei rifiuti. Pensate che i calcoli che si fanno nel 2050 si calcola che arriveremo a 3,5 miliardi di tonnellate nel mondo, cioè la previsione è di essere sommersi da un mare di rifiuti. E quindi questo ci impone di gestire questa cosa, tanto più in paesi come la Tunisia, dove dice, ci scrive Meriem su questo bel servizio, non c'è una politica ancora attiva, per esempio, di raccolta differenziata. Allora, parte proprio il 18 marzo 2021 un programma che si chiama Zero Rifiuti in Tunisia, che è il tentativo da varie associazioni con l'appoggio dello Stato di cominciare a avviare una politica di controllo efficace, che dovrebbe essere basata su 5 regole, le diciamo qua, le riportano e vengono dalla Tunisia ma valgono per tutti noi, che cioè questo: rifiuto dei prodotti a uso unico, e privilegiare gli acquisti senza che non hanno rifiuti, che non hanno scorie, ridurre il consumo di beni, riutilizzare tutto quello che può essere riutilizzare e poi fare la raccolta differenziata. Sono piccole regole, ma che valgono per noi, piccole grandi regole, e anche in carcere ecco, bisognerebbe fare un discorso, perché anche il carcere produce molti rifiuti e quindi anche lì si tratta, e forse dal carcere può venire proprio un messaggio di come una comunità riesce a gestire i propri rifiuti. Ti va di accompagnare tutto questo anche con un brano musicale? Sì, che non fa parte dei rifiuti ovviamente, no, ma anche della musica mondiale. Abbiamo ancora Aida Nadim, questa grande cantante irachena, che ci canta una canzone di nuovo, una grande città araba del Medio Oriente, non araba ma del Medio Oriente, che canta Istanbul. Beş dakikada bir motorunu acelesine inat. Biniyorum mecbure, ardımda martılar telaş. Bırakın gitmek var, şimdi seni yarim. Dört yar ezar, vapur, vapur, e rieccoci sulle note musicali di Istanbul, di Aida Nadim. Continuiamo con te, Ignazio, sempre sul nostro Liberi Dentro Edu Radio, la nostra consuetudinaria rubrica di Galateo Arabo Internazionale, le buone maniere. Stiamo parlando di cibo, stiamo parlando di un aspetto molto particolare. Per fare Galateo del cibo forse bisognerebbe tener conto delle persone che abbiamo a fianco, vero? Esatto. Un conto è se mangi tu da solo davanti al frigorifero, ecco, ti svegli di notte, ecco, e alle tre, ecco. Ma quando ci si siede a tavola, e nel mondo arabo, mangiare è simbolo di stare insieme. Ecco, non è un vero pranzo se uno non condivide quello che ha. E bisogna ricordare che nel mondo da cui vengono questi detti, si mangiava da un piatto unico, un grande piatto che si mette in mezzo al tavolo, come forse abbiamo potuto fare qualche volta con la pizza in certe pizzerie, la pizza al taglio. Okay? Allora dice questo Galateo, Anahi anil akel min ala wa alina wa wasti, cioè devi mangiare quello che c'è davanti a te. Portavano il grande vassoio del riso, poi magari c'erano i pezzi del pollo in mezzo, e uno va a prendere il pezzo che gli piace, che sta dall'altra parte del grande piatto. E quindi no, devi mangiare davanti a te, perché tutti devono avere la loro parte. Mi sembra una cosa semplicissima, ma che fa parte dell'adab el-akel, cioè dello stare insieme, sì. Quindi do sempre la parola al nostro ospite. Vi dicevamo, siamo in famiglia questa settimana, famiglia Edu Radio, con anche Roberto Lolli, che è presente con noi già dall'anno scorso con la prima edizione di Liberi Dentro Edu Radio. Roberto, tra le attività di AVOC, abbiamo detto, ricordato ieri, il sostegno morale, psicologico, i legami familiari per le persone detenute, ma anche un sostegno materiale veramente effettivo. In che cosa consiste? Ma principalmente, ciao intanto, ciao a tutti, principalmente è all'interno del carcere il discorso, un po' quello che noi chiamiamo magazzino vestiario. In realtà è un locale, alcuni locali che ci sono stati dati a disposizione, dove noi teniamo vestiti, principalmente prodotti di igiene, e anche gli occhiali della farmacia, per capirci, in modo da poter distribuire in tempi abbastanza veloci, in base alle loro richieste, quello che abbiamo, quello che possiamo dare, quello che la gente ci regala. A chi? A tutti i detenuti, persone detenute che hanno una disponibilità economica ridottissima. Noi abbiamo stabilito i 150 euro, è giusto dirlo qui, cioè chi ha la chi non ha disponibilità economica perché può lavorare, perché ha familiari che lo aiutano e tutto, noi facciamo tutto quello che possiamo. Tenete presente che adesso col Covid i dati sono falsati, ma gli ultimi dati utili importanti del 2018 e 2019 ci danno 500 persone che sono state vestite, prodotti di igiene, tutto due volte all'anno. Noi facciamo due elargizioni, diciamo, poi diamo al bisogno, ma comunque il lavoro viene fatto. Quindi questo principalmente a livello di vestiario, per capirci, spazzolino, dentifricio, sapone, queste cose qui. Poi c'è un aiuto che facciamo già ormai da tanti anni insieme anche alla diocesi, che il cardinale ci raddoppia la nostra disponibilità. Noi stanziamo 6.000 euro, il cardinale ce ne raddoppia diventando 10.000, che li distribuiamo sempre alle persone che hanno disponibilità economica, stavolta sotto i 15 euro. Quattro volte all'anno diamo questo aiuto di circa 15 euro per quello che possiamo. Ecco, questo è importante perché dentro il carcere anche solo un qualunque cosa uno voglia acquistare nello spazio, quindi attraverso la distribuzione interna, serve non denaro virtuale, cioè dal loro cassettino vengono tolti i soldi. Quindi ecco, questo è veramente una questione per alcuni di sopravvivenza e di essere simili agli altri, perché in un luogo così avere oltremodo delle difficoltà è ancora peggio, perché non sai dove andare a suonare. Quindi ecco, questo è l'aiuto materiale, diciamo, che cerchiamo di dare sempre in maniera indistinta fra tutte le persone che sono recluse e possono avere bisogno. E allora, se mi permetti Roberto, ne approfitto per dire questa cosa importantissima, che i detenuti del carcere di Bologna, attraverso l'Associazione di Solidarietà La Villetta, che da alcune settimane ha avviato una raccolta di aiuti umanitari per le persone migranti bloccate in Bosnia, ha organizzato per l'appunto una raccolta di fondi, e i detenuti hanno veramente raccolto diversi soldini per sostenere le persone migranti. Quindi questo è un esempio veramente luminoso, che anche in situazioni difficili, di privazione di tutto, possono essere messaggi di solidarietà veramente meravigliosi. E io chiudo, non abbiamo più tempo ma lo diciamo domani, chiudo la giornata di oggi con un brano di Christina Aguilera, Beautiful, bellissimo, una ballata romantica sull'importanza della bellezza interiore e sul sapersi accettare in tutte le proprie diversità. E noi ci rivediamo domani con voi, e dopo ci vediamo con ASP, col progetto di Mittendi, l'ospite è Sara Malagoli. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what. Words can't bring me down, no, no. So-

anche per oggi il nostro intervento termina qui. Ci rivediamo presto per nuove pillole di approfondimento da chi vive per chi vive il mondo del carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro Edu Radio sui social tramite Instagram e Facebook per qualsiasi domanda o richiesta nelle prossime puntate. Ciao, a presto. Ciao. E rieccovi, ci salutiamo anche oggi con i saluti di fine puntata. Vi ricordo alle ore 17, oggi che è martedì, il laboratorio a cura di Altro Diritto. E vi ricordo anche sempre di scriverci, l'indirizzo postale sempre Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammol 2, 40136 Bologna, indirizzato a Liberi Dentro, oppure la posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Ringrazio soprattutto voi ascoltatori, ma anche la nostra redazione di Eduradio, Ignazio De Francesco, Roberto Logli, ospite per questa settimana, e il nostro tecnico Matteo Parisini. Ci rivediamo sempre domani, sempre qui alle ore 10 su Teletricolore e alle 9 sulla radio.